Uova. Le uova, dopo la carne, tengono il primo posto fra le sostanze nutritive. L'illustre fisiologo Maurizio Schiff, quando teneva cattedra a Firenze, dimostrava che la chiara è più nutriente del torlo, il quale è composto di sostanze grasse, e che le uova crude o pochissimo cotte sono meno facili a digerirsi delle altre, perché lo stomaco deve fare due operazioni invece di una. La prima di coagularle, la seconda di elaborarle per disporle all'assimilazione. Meglio è dunque attenersi alla via di mezzo, e cioè né poco né troppo cotte. La primavera è la stagione in cui le uova sono di più grato sapore. Le uova fresche si danno a bere alle puerpere e il popolo giudica sia cibo conveniente anche agli sposi novelli. Ci fu una volta il figlio di un locandiere da me conosciuto, un giovinastro grande, grosso e minchione, il quale, essendosi sciupata la salute nel vizio, ricorse al medico che gli ordinò due uova fresche a bere ogni mattina. Datosi il caso favorevole e sfavorevole insieme, che nella locanda v'era un grande pollaio, ivi si recava e beveva le uova appena uscite dalla gallina, ma, come accade, il tempo dando consiglio, dopo qualche giorno di questa cura, il baccellone cominciò a ragionare. Se due uova fanno bene, quattro faranno meglio. E giù quattro uova. Poi, se quattro fanno bene, sei faranno meglio che mai. E giù sei uova per mattina. E con questo crescendo, arrivò fino al numero di 12 o 14 al giorno. Ma finalmente gli fecero fogo e un forte gastricismo lo tenne in letto non so quanto tempo a covar le uova bevute. 139. Uova a bere e sode. Le uova a bere fatele bollire 2 minuti, le uova sode 10, cominciando a contare dal momento che le gettate nell'acqua bollente. Se vi piacciono bazzotte, bastano 6 o 7 minuti, e in ambedue i casi, appena tolte dal fuoco, le metterete nell'acqua fredda.